Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Puntata dedicata a Jonathan Coe, lo scrittore inglese autore di libri come La banda dei Brocchi, La famiglia Winshaw, Circolo chiuso e La casa del sonno. In genere nelle sue opere Coe descrive il contesto sociopolitico in cui si muovono i personaggi, ma lo fa sempre in modo ironico, quasi in forma di satira. Per esempio nella banda dei Brocchi descrive l'Inghilterra anni 70 con le questioni sindacali e il razzismo, mentre La famiglia Winshaw è un'allegoria dell'aggressività e della corsa al potere negli anni 80. L'ultimo romanzo si intitola I terribili segreti di Maxwell Sim, pubblicato da Feltrinelli con la traduzione di Delfina Vezzoli. Protagonista è un uomo, Maxwell Sim appunto, che si trova in un periodo difficile della sua vita. È stato lasciato dalla moglie, che si è portata via anche la figlia, ed è in una fase insomma di depressione. Per mesi non ha parlato con nessuno, le sue relazioni umane sono state mediate da mail, Facebook, SMS. All'improvviso sente la necessità spasmodica di avere relazioni umane, insomma di parlare con la gente faccia a faccia. Ecco come Jonathan Coe descrive il suo personaggio. Well, I don't like to call him an everyman because that's a difficult concept these days, I think. Non mi piace chiamarlo uomo qualunque, perché questo è un concetto complesso oggigiorno. Devo dire che la politica dell'identità ultimamente ci potrebbe portare a definirlo un uomo qualsiasi, di razza bianca, di 48 anni, appartenente alla borghesia inglese. Non volevo che fosse anonimo, ma il più ordinario, normale possibile. Non è però né monotono né noioso. Volevo che fosse il tipo di uomo che non si guarda due volte per la strada. E ancora, e spero che il romanzo lo mostri, lui ha una vita interiore ricca e interessante, e strana, come nessun altro. Ma ho voluto rappresentarlo così perché ho voluto anche fare un contrasto con la ricchezza emozionale che quest'uomo ha come nessun altro. È un uomo che sembra avere proprio fame di rapporti umani, anche se dice di non essere abituato, inizia a fare amicizia con un passeggero su un aereo, addirittura inizia a chiacchierare con un rapinatore su una panchina. Da dove viene questa fame di rapporti umani? Well, you have to remember that as the book opens, Max is alone and has been alone for 6 months. Se ricordate, il libro si apre con Max che è solo. È solo da 6 mesi, da quando è finito il rapporto durato 12 anni con una moglie che ama ancora e con la figlia alla quale si sente molto legato. Questo ha comportato una fase di depressione durante la quale Max non ha parlato con nessuno. Comunicava solo attraverso SMS o mail. All'inizio del libro ha fame di rapporti umani, contatti quotidiani, faccia a faccia, cose che noi normalmente facciamo, ma che quest'uomo deve imparare a fare. Il resto della storia mostra come Max riesca ad avere di nuovo rapporti con le persone. Che importanza ha il rapporto con il padre e appunto che relazione c'è fra i due? Maxwell has a very cold and distant relationship with his father, which is not his own fault, it's his father's fault. Maxwell ha una relazione fredda e distante con il padre, non per colpa sua. La colpa è del padre. Suo padre è riservato, è un uomo che non comunica. E la ragione del suo essere così freddo in famiglia si scopre alla fine del libro. La relazione con il padre è estremamente importante. Serve alla definizione dell'identità di un uomo. Ho preso spunto dal mio romanzo precedente, La pioggia prima che cada, la storia di 3 generazioni di donne, la nonna, la mamma e la figlia, nel quale mostravo come le relazioni fra loro determinassero la personalità e il destino. Con Maxwell Sim ho voluto raccontare una storia simile, ma da un punto di vista comico e da un punto di vista maschile. Guardando un po' a tutti i suoi libri, La banda dei Brocchi prendeva in esame gli anni 70, La famiglia Winshaw era un'allegoria della situazione sociopolitica degli anni 80. In genere lei guarda la situazione sociopolitica nei suoi romanzi? Well, I don't set out to write history and I'm not comfortable with the idea that my novels are read as kind of social histories of my country. Quando mi metto a scrivere, non ho in mente una scrittura di carattere storico. Non mi piace nemmeno che i miei lavori vengano considerati una specie di storia sociale del mio paese, perché non lo sono. Sono storie di individui che affrontano situazioni e crisi personali. Ma allo stesso tempo trovo interessante, come scrittore, ambientare queste storie in un più ampio contesto politico e sociale, perché nessun uomo è un'isola. Le decisioni che riguardano gli individui derivano molto spesso dalle circostanze in cui si sviluppano. Mi piace molto l'idea che nel romanzo, come forma letteraria, si possa chiarire quelli che sono i rapporti fra il destino individuale e il contesto sociopolitico in cui si incastona questo destino individuale. E diciamo che questo è un aspetto che a me, come scrittore, interessa moltissimo. Showing that relationship as clearly as possible is one of the things I'm most interested in doing in my books. In genere i suoi romanzi sono un po' la cartina al tornasole della situazione socio-politica di varie epoche. Questo romanzo qui cosa vuol rappresentare? C'è un po' soprattutto l'idea della solitudine dell'uomo? Yes, partly I wanted to focus on Maxwell's solitude and the different ways in which new communications technologies. In parte sì. In parte ho voluto concentrarmi sulla solitudine di Maxwell. Ho voluto far vedere come le nuove forme di comunicazione, la nuova tecnologia, non possano superare la solitudine. Piuttosto la rendono ancora più intensa. Inoltre penso ci sia una narrativa di carattere sociopolitico sullo sfondo. Che questo accada, non lo nego affatto. C'è una crisi economica, ma Maxwell non è interessato alla politica come non è interessato a molta gente del mio paese. Infatti solo il 50% degli elettori in Gran Bretagna va a votare. Alla fine però quest'uomo capisce che non si può isolare in un vuoto totale. Deve capire e capisce che la società è un'entità organica, quindi quello che ognuno fa ha effetti su tutti gli altri. Questo lo porta alla consapevolezza che non ci si può staccare completamente dalla politica, come molte persone oggigiorno vorrebbero fare. The fact that he can't detach himself from politics completely, as many people nowadays want to do. Lei si definirebbe uno scrittore politico? All good writing is political because it's... Tutta la buona scrittura è politica. È politica perché dà la possibilità alla gente di pensare liberamente e di pensare con la propria testa. Non è necessario che uno scrittore faccia dichiarazione di appartenenza politica a una parte o a un'altra. È però responsabilità dello scrittore esercitare l'immaginazione del lettore. In questo modo, sviluppando l'immaginazione, il lettore è meno suscettibile di essere influenzato dalle bugie dei politici e maggiormente in grado di comprendere i problemi e le difficoltà delle altre persone. Ed è per questo che dico che tutta la scrittura buona è politica, perché è un esercizio di liberazione dell'immaginazione. All good writing is political because it's an exercise in freeing the imagination. Come giudica la situazione sociopolitica attuale della Gran Bretagna? That's a very big question. A little too big to answer with any authority. È una domanda grande, forse troppo grande per poter rispondere con autorità. Posso dire che il problema principale in questo momento è quello della partecipazione, quello del tentativo di conciliare la gente con la politica, di spingerla alla partecipazione, perché una sorta di apatia avvolge i britannici, un'apatia causata in parte dalla prosperità e dal benessere, in parte, secondo me, dovuto al fatto che non ci sono più battaglie politiche per cui lottare e da vincere. Abbiamo una classe politica che vive separata dal mondo. Si tende a pensare, nel mio paese, che la politica sia qualcosa che si fa a Londra, a Westminster, fatta da persone che non hanno alcun contatto con la realtà. Questo, oltre all'apatia, porta a un cinismo forte nel giudicare i politici e la politica. E credo che il più grande pericolo politico che riguarda la Gran Bretagna, ma probabilmente anche altri paesi europei, Italia compresa, è che si sia sviluppata questa totale apatia, questa non volontà di agire per cambiare le cose. The main political danger facing Britain and possibly other European countries as well, including Italy, is this culture of political apathy, this sense that we can do nothing to make things better, so we shouldn't do anything at all. E questo era Jonathan Coe, ora in libreria con I terribili segreti di Maxwell Sim. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.